Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca microfono, lo ricordo, ospite Andrea, bassista della formazione di Temponauts. Come detto in precedenza, spazio ai brani tratti dal loro disco A Million Year Picnic, come ad esempio il primo, il titolo? Il titolo è Toxic and Lazy. La vostra esperienza durante le registrazioni, come ha preso forma il disco e cosa avreste voluto magari cambiare in certi brani? Ma il disco ha preso forma attraverso un sacco di tempo, di lavoro fatto in sala prove. Noi arriviamo con un'idea, generalmente è Pibio che arriva con una traccia, con una melodia. E poi in sala prove la mettiamo giù, proviamo a lavorarci sopra e si crea un jingle e insomma... Alla fine siamo andati in studio perché ci sembrava tutto pronto. Poi come è già successo quando abbiamo registrato un demo anni fa, due demo anni fa, insomma, arrivi lì e le canzoni dovevano essere 9 o 10, sono diventate 12. Siamo riusciti a attaccarci qualcos'altro. Poi la realizzazione vera è avvenuta proprio in studio con Alberto, che è il nostro tecnico di fiducia, che ci ha aiutato tantissimo. Qual è invece la prossima canzone? Ma la seconda io manderei Captain Frustration, che è un altro brano molto significativo del nostro album. Yeah. Di nuovo in studio con Andrea dei Temponauts. Il disco ha ricevuto un fiume di recensioni positive. Come avete preso questa cosa e magari se avete trovato qualche nota critica tra i vostri recensori? Ma le recensioni sono state tutte positive, tutte che ci ricollegano ai 60, tutti che ci fanno complimenti per questa atmosfera, questo jingle jungle di chitarre che si rincorrono e non si capisce mai bene quante sono e quali sono. I nostri cori, le nostre voci, noi puntiamo molto a questo discorso dell'insieme vocale, dell'insieme di tutta l'armonia degli strumenti, l'impasto sonoro, esatto. Ma qualche critica, sì, magari non lo so, i pezzi troppo brevi, oppure ma questo inglese, alcuni non so, ci sono delle cose molto discordanti. Noi hanno fatto tantissimi complimenti per un inglese perfetto. L'ultima recensione che è uscita su Blow Up il mese scorso invece ci fa un po' le storie sull'inglese, quindi però tutto sommato tutto molto positivo, insomma. Il prossimo pezzo per i nostri ascoltatori? Ma il prossimo pezzo è, diciamo, uno dei nostri veri cavalli di battaglia, è Man of Dangerous Maybe. Torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends, sempre con Andrea dei Temponauts. Voi restate sempre su Radio RCS.